Abbiamo qui in studio con noi alcune compagne dell'assemblea di donne femministe e lesbiche contro i CIE. Ciao. Allora, il 25 pomeriggio noi abbiamo organizzato questa piazza. E, Piazza Trilussa. Piazza Trilussa. Ci troviamo lì dalle 4 in poi. E prima di tutto cercheremo di raccontarvi quello che è stato il nostro percorso, cioè vorremmo farvi capire perché siamo arrivati a fare una manifestazione o comunque un presidio il 25 novembre, le ragioni che ci hanno portato in piazza, da dove viene il nostro percorso di lotta, tant'è vero che abbiamo individuato 3 punti fondamentali in questo percorso e che sono il presidio a Milano sotto il tribunale per Gioia Ellen, il corteo di Modena, il tavolo separato di Torino, e proprio dal tavolo separato di Torino che è nata la proposta di questa settimana di mobilitazione. Ecco, infatti, perché l'abbiamo accennato all'inizio, però magari spieghiamolo meglio, si tratta di una settimana che inizia il 25 novembre. Sì, inizia il 25 novembre e finirà il 2 dicembre, che è proprio il giorno dell'udienza preliminare del processo contro Vittorio Addesso, che è l'ispettore capo del CIE di Corelli, che si apre questo processo perché per la violenza tentata su Joy, e quindi noi saremo presenti il 2 a Milano e ci saranno tutta una serie di iniziative e comunque ci saranno tutta una serie di iniziative anche durante la settimana. Cominciamo col 25 e finiremo col 2 e ci saranno anche non soltanto qui a Roma, ma è stata una scelta nazionale, cioè a Torino, questa è stata un'indicazione che abbiamo preso insieme, Torino, Bologna, Milano, le compagne che lavoravano e hanno lavorato contro la violenza di genere nei CIE, è stata una decisione collettiva e quindi le mobilitazioni ci saranno in tutta Italia. Poi lì in piazza ognuna di noi volevo dire una cosa importante, che è questa, che in effetti per noi il 25 sarà un giorno di denuncia, in questo senso che la cosa importante che è venuta fuori dal nostro percorso, che è un percorso sul campo, nel senso che è venuta fuori tutto quello che portiamo in piazza, è venuto fuori da le lotte effettive sul campo contro la violenza di genere nei CIE, accanto a donne che si sono ribellate, che queste violenze le hanno subite sulla loro pelle, e quindi tutto quello che porteremo in piazza viene da un percorso vissuto. Ed è una scelta perché vogliamo ribadire il nostro no a ogni tentativo di strumentalizzazione della lotta contro la violenza sulle donne. E di tentativi ne hanno fatti, parecchi, tantissimi, e questo fa malissimo alla lotta. Che cosa ci sarà in piazza? Sì. Prima di tutto cercheremo di fare informazione, perché spesso è una cosa che manca, cioè la materia prima, sapere che a volte anche solo cosa sono i CIE e soprattutto cosa ci succede dentro, perché la gente, perché le donne ci finiscono, e racconteremo insomma quindi qualche storia proprio perché insomma questo percorso è nato anche sull'onda diciamo di una storia simbolo in qualche modo, che è quella di Joy, che sicuramente quelle che ascoltano il martedì conoscono benissimo, per cui non la riraccontiamo, però insomma le storie delle donne che finiscono nei CIE e delle donne che si sono ribellate, non soltanto di Joy, sono importanti, è importante che vengano fuori, e questo lo faremo appunto attraverso questa mostra che ci è stata gentilmente prestata dalle compagne di Milano, attraverso delle storie che abbiamo raccolto, attraverso le parole di Attrice Contro, che ha fatto lo spettacolo Madama Chi e che porterà in piazza un monologo invece sulla storia di Joy ed Ellen. E poi insomma a partire dal microfono aperto, che insomma attraverso il quale racconteremo delle cose, e poi naturalmente materiali, quello che è stato prodotto, il glossier che hanno prodotto le compagne di Bologna, eccetera. ci saranno anche le nostre magliette, ricordiamocelo. Questa è una novità. Ribellarsi sempre, ribellarsi tutte, così che nel dubbio, nel dubbio. Slogan. Nel dubbio, così praticamente magari le compagne se le porteranno quando lavorano, sì, tutte, si ricorderanno di ribellarsi continuamente. E quindi insomma vi aspettiamo, ci terremo molto a raccontarvi comunque il nostro percorso, perché il tentativo è proprio quello di condividere delle conclusioni che noi riteniamo importanti sia per combattere la strumentalizzazione delle lotte contro la violenza sulle donne, però anche per fare chiarezza e riuscire a evitare quello che è successo a storie come Joy, quello che è successo a donne come Faith, di cui ancora non sappiamo niente, non sappiamo neppure che fine abbia fatto, che in Nigeria ha una condanna a morte per impiccagione, perché non succeda che certe donne vengano trattate in un certo modo e certe altre in un certo altro, cioè che non ci siano donne di serie A e di serie B. Giustissimo. Va bene, siete state incisive e rapide. Sì, magari ne approfitto anche, visto che non l'avremo al telefono e tu hai nominato la mostra di Milano, che un po' appunto le compagne di Milano avranno una loro presenza con questa mostra, che è una mostra che ragiona a partire dai CIE, però anche su tutti gli altri recinti, diciamo, che esistono per le donne, e sono parecchi, insomma, dal lavoro la vita appunto in generale, e loro anche insomma appunto seguiranno varie iniziative già organizzate magari a Milano e saranno presenti con questa mostra, organizzandosi poi per la giornata del 2 dicembre. Quindi rimandiamo alle prossime settimane una telefonata comunque con loro. Però insomma era il discorso che facevi anche tu come visibilità nazionale. A me piacerebbe anche chiamare praticamente tutte le compagne a seguire le iniziative che ci saranno in questa settimana e a parteciparvi, perché anche qui a Roma poi ci saranno delle iniziative, cioè questa del 25 è la prima, poi ne verranno altre che saranno adeguatamente comunicate fino al 2, e quindi ci teniamo che questa settimana diventi una settimana di denuncia, di mobilitazione, che sia insomma importante.